in primo piano. Giovedì 17 marzo ci sono praticamente moltissimi quotidiani con doppie copertine o doppie prime pagine, perché ci sono i titoli di prima pagina, molti quotidiani, il Corriere della Sera, il Secolo XIX, il Giornale, il Quotidiano Nazionale, l'Unità, sono rivestiti da una prima copertina, una prima pagina, non so, dal Buon Compleanno Italia, il Corriere mette la poesia marzo 1821 del Manzoni, l'Italia che piace per il Secolo XIX, il Giornale mette Indro Montanelli, poi all'interno c'è una prima pagina invece con le notizie, quelle canoniche del giorno, che vedremo più avanti, perché io voglio andare subito alle segnalazioni, altrimenti non c'è tempo. La prima segnalazione viene da Libero, in prima pagina. Libero mette questa notizia: alla casta paghiamo pure i massaggi shiatsu. Così nel giorno dell'Unità d'Italia vi mettiamo come al solito e vi metto di buon umore. I radicali hanno scoperto alcuni documenti che sono riusciti a farsi dare dal Senato, dei fornitori del Senato, li hanno resi pubblici, documenti che erano segreti. E allora Franco Bechis racconta su Libero di come si spendono 10 milioni per curare la salute dei deputati. Lo Stato spende in media 4.300 euro a testa per le cure mediche dei deputati e la mutua passa anche trattamenti estetici e cure termali. L'hanno scoperto appunto il segretario dei radicali Mario Staderini e l'onorevole Rita Bernardini. Non hanno potuto avere l'elenco completo delle prestazioni, ma questa mutua sanitaria comprende la shiatsu terapia o l'elettroscultura, che non so sinceramente che cosa sia. Sta di fatto che paghiamo alla casta persino i massaggi shiatsu, così titola Libero, lo trovate a pagina 21. La seconda segnalazione viene dal Corriere della Sera, pagina 33. I biglietti gratis per il bus di Genova. Alle fermate arriva il ticket crossing. Di cosa si tratta? Beh, visto che a Genova di recente sono stati aumentati i prezzi dei mezzi pubblici, qualcuno si è organizzato. Le informazioni hanno iniziato a correre su Facebook, uniti contro la crisi e contro il caro bus a Genova. Precari, studenti, associazioni, cani sciolti hanno fatto questa iniziativa di ticket crossing, ovvero scambio al biglietto, cioè ci si dà un appuntamento, visto che il biglietto, è vero, viene obliterato una volta ma dura 100 minuti, ci si trova in alcuni snodi dei mezzi pubblici, uno utilizza il biglietto, però c'è stato sul pullman magari per 20 minuti, e cosa fa? Aspetta un'altra persona e cede a lui il biglietto che vale per i successivi 80 minuti. I biglietti usati ma ancora buoni per altri viaggi, visto che appunto costano 1,50 euro per 100 minuti, sono stati aumentati di recente del 25%, e questo rincaro è stato oggetto di polemiche, proteste da parte della sinistra, l'associazione di consumatori, e qualcuno allora si è organizzato così: cediamo, usiamo il biglietto ma poi lo cediamo per il resto del tempo per cui vale. È un'azione illegale, questo dicono l'azienda dei trasporti, perché comunque il biglietto, come scritto ovunque, non è cedibile, quindi è usato da una sola persona, non è cedibile. Che dicono questi ticket crosser? Sarà illegale, ma è giusto così. E allora siete orgogliosi, vi sentite orgogliosi di essere italiani? Su questo ci interrogheremo, vi interrogheremo dalle 8:20, io e Oscar Giannino, in uno speciale fino alle 10 con tanti ospiti. Ricordo che oggi anche il Sole 24 Ore ha uno speciale da chiedere al vostro edicolante, con tante pagine per celebrare i 150 anni d'Italia. Venendo invece alle notizie, diciamo, più generaliste, l'apertura del Sole è proprio sul Giappone, ancora allarme USA, radiazioni letali, e anche gli altri quotidiani, è il Corriere, la fuga radioattiva non si arresta, per Repubblica, Giappone, la centrale fuori controllo. Questi sono i titoli dei principali quotidiani, e il Sole, insomma, fa sapere con Jacopo Giliberto a pagina 3 che la radioattività è ormai considerata letale a Fukushima. Tra l'altro ci sono i racconti, per esempio uno viene raccolto, viene rilanciato da Repubblica a pagina 3, di questi, ieri hanno dati per 50 definiti samurai che lottano nella centrale, in realtà sono 180 eroi, senza volto, senza nome, lavorano a turni di 50, ma in realtà sono in 180 della della compagnia giapponese TEPCO, quella che gestisce gli impianti nucleari, che lavorano lì, senza volto, senza nome, protetta la loro identità, si raccolgono solo sul Facebook giapponese, Mixi. Tu vai da qualche parte al sicuro, mi ha detto mio marito tra le lacrime, dice la moglie di uno di questi 180 dipendenti della compagnia che sono lì per cercare di combattere contro l'ipotesi di una catastrofe nucleare. E beh, la situazione è tutt'altro che sotto controllo, tanto che per la prima volta nella storia l'imperatore giapponese Akihito ha parlato in TV. Ieri è comparso per 6 minuti, racconta il Corriere a pagina 5, a un Giappone ammutolito l'imperatore offre la sua voce, non era mai accaduto prima che Akihito ha parlato in TV, 5 minuti registrati in una sala del palazzo adibita alle udienze e agli incontri, non sappiamo quanti siano i morti, la mia speranza è che si salvino tante vite, si è presentato in doppio petto grigio con un nodo della cravatta che appare fin troppo stretto, sapete l'imperatore è considerato, era considerato prima della sua umanizzazione una discendenza diretta, divina. Non esiste un rito semplicemente perché non esiste un precedente. Mai prima Akihito si era rivolto direttamente alla nazione in un discorso televisivo. Ieri è andato in onda questo debutto, insomma a segnare una situazione davvero drammatica. Mentre c'è ora anche l'allarme che arriva fino all'Italia, fino all'Europa, riguardo il cibo giapponese. Il ministro Fazio, il ministro della salute, a pagina 11 di Repubblica, un pochino tranquillizza dopo che, dice Repubblica, un paio di giorni fa porta a porta aveva un po' lanciato l'allarme. Gli stock di alimenti provenienti dal Giappone, confezionati dopo l'11 marzo, il giorno del terremoto, racconta il ministro Fazio, verranno bloccati in attesa che i laboratori di Roma e Foggia ne abbiano controllato un campione. Comunque, il tempo dei test al massimo di 1 o 2 giorni, poi le confezioni andranno nei supermercati. Comunque, dice Fazio, ho appena letto la protezione civile di Tokyo che dice in Giappone, a Tokyo, in queste ore c'è meno radioattività che a Roma. Lo sa che a Roma c'è una delle città con i valori più alti al mondo di radioattività? Dice Fazio, è per il radon sprigionato dai sanpietrini? Sì, ritengo che i cibi importati dal Giappone siano sicuri. Dunque, ministro Fazio che tranquillizza. Oh, ieri io avevo un po' criticato la scelta del Corriere della Sera di mettere a favore del nucleare la posizione di Edoardo Boncinelli, uno scienziato, contro il nucleare Adriano Celentano. Oggi a parlare contro il nucleare sul Fatto Quotidiano si continua un po' in questa linea di dibattito, certamente che di scientifico a poco. Il referendum ci salverà, parla Beppe Grillo. Beppe Grillo intervistato da Ferruccio Sansa sul Fatto Quotidiano. Intanto dice di De Magistris non parlo, ha fondato un partito, neanche una parola, dico. E poi c'è il solito Beppe Grillo, insomma. Io non accetto più un dialogo tra sì e no. Per quel che riguarda i nuclearisti, siamo in guerra tra vivi e morti. Noi abbiamo 1000 progetti, idee di sviluppo, parliamo di fonti di energia alternative e pulite. Loro hanno merda e cemento. E poi ancora sulla legge Romani. È un'infamia, vedo il governo che taglia sulle rinnovabili e punta sul nucleare. Questi sono dei morti. Distingue sempre così, no? Tra vivi e morti, Beppe Grillo. Col nucleare noi ci paghiamo i debiti. E poi invito agli italiani, basta che guardino il Giappone per votare al referendum, l'apocalisse di un'isola che non c'è più. 30 anni fa sono stato in Giappone, in un supermercato c'erano delle lattughe che crescevano illuminate costantemente dall'energia prodotta dalle centrali nucleari. E sa perché? Per non dover essere lavate. Ecco, noi facciamo le centrali per non lavare le lattughe. Questa è l'analisi profonda di Beppe Grillo sul Fatto Quotidiano. Il referendum ci salverà. Lasciamo il nucleare, veniamo alle questioni interne, politiche. Beh, il giorno dell'Unità d'Italia, quindi trovate molte interviste, ma insomma non mi dilungo molto perché poi lo faremo dalle 8:20. C'è il tema più affrontato, è quello delle polemiche per la Lega. Il gelo della Lega sulle celebrazioni, così a pagina 15 del Corriere, con un'intervista anche al sindaco Fontana di Varese. Esponente della Lega, presidente dell'ANCI Lombardia, che dice: sa cosa mi offende? Che il presidente della regione Sicilia non festeggia dicendo che l'unità è stata devastante e nessuno polemizza con lui. Poi se uno vuol fare il garibaldino del 2011, padronissimo, mi incazzo solo se lo fa solo per contrapporsi. ha detto no il sindaco al pino tricolore in centro città, definendolo una pagliacciata, ci vuole più sobrietà. Su questo magari non ha neanche tutti i torti, un po' di pagliacciate se ne sono viste, aggiungo io. In ogni caso, dice Attilio Fontana, io ascolterei comunque Napolitano, stimo molto il presidente, mi piace ascoltare i suoi interventi e sul fatto lei si sente italiano, mi sento italiano nel momento in cui viene riconosciuto che bisogna cambiarlo questo paese, mi sento poco italiano quando vedo che a Varese arrivano 240 euro pro capite e a Napoli 699. Quando dobbiamo pagare un euro di pedaggio per 3,5 km di autostrada e nel sud invece è gratis? Allora, in questo caso ancora mi sento poco italiano. Questo Attilio Fontana, il sindaco di Varese, ma ne parleremo alle 8:20. Ci sarà anche il ministro La Russa alle 8:30, il ministro della difesa ospite per qualche minuto per noi, eccezionalmente, visto che oggi è il giorno delle celebrazioni. Ora voglio andare alle questioni che tengono col fiato sospeso un po' e con qualche malumore il Presidente del Consiglio. Intanto c'è ancora vari sviluppi sulla vicenda giudiziaria al Bunga Bunga con le maglie del Milan, le confidenze delle ragazze di Arcore. Sono tornate paginate e paginate, questa l'ho letta da Repubblica, sulle confidenze, intercettazioni, per esempio questa che è proposta sia dal Fatto Quotidiano sia dalla Stampa, pagina 7, eccolo qui, la starlet ad Arcore, Silvio è un pezzente. Questa è una delle intercettazioni che Paolo Colonnello racconta sulla Stampa, attribuita ad Iris Berardi, la più giovane, la più esplicita, il 23 settembre scorso. Non mi volevo fermare lì per lui, parla al telefono con una delle gemelle De Vivo. Non mi volevo fermare lì per lui, per la gloria, cioè mi fermavo lì nella speranza che mi desse qualcosina, ma è un pezzente. Così parla di Berlusconi Iris Berardi. E anche sul Fatto Quotidiano, Papi Girl, che ingrate, è un pezzente. Iris Berardi alla De Vivo, credi che ad Arcore mi fermavo per la gloria? Così Gianni Barbacetto e Antonella Mascali a pagina 3. Raccontano questi stralci di nuove intercettazioni, mentre sul Corriere ci sono nuovi sviluppi su quelli che sono gli assegni bancari di Berlusconi. Luigi Ferrarella e Giuseppe Guastella raccontano a pagina 21 come il Premier diede all'Elemora quasi 3 milioni di euro, assegni per 2 milioni 450 mila euro che si sommano ai 300 mila già noti. Soldi che, racconta il Corriere in questo articolo, sono finiti in Svizzera, molti pagati sulla banca svizzera di Lugano, assegni in alcuni casi di 500 mila euro. Almeno 3 assegni e 9 assegni circolari da 100.000 euro. Alla dicitura sulla distinta di richiesta emissione assegni presentata dal ragioniere Spinelli, colui che gestisce il patrimonio del Premier, alla Banca Popolare di Sondrio, si nota la dicitura scritta a penna OK per fondi. Questa sarebbe la dicitura. Questo è per quel che riguarda l'aspetto del processo, dove peraltro avete sentito qualcuno ha adombrato il sospetto che questa modifica approvata alla riforma della giustizia con un nuovo emendamento che prevede una prescrizione breve per gli incensurati, così titola a pagina 22 Sole 24 Ore, prescrizione breve per gli incensurati, possa valere anche per i processi di Berlusconi. Donatella Stasio racconta di come l'emendamento sulla prescrizione breve per gli imputati incensurati presentato ieri dalla maggioranza, inserita nel provvedimento sul processo breve, un articolo, il 4 bis, che riduce di un quarto, o meglio riduce da un quarto a un sesto l'aumento del tempo necessario a prescrivere i reati commessi da imputati incensurati, quelli che il relatore chiama persone per bene, Maurizio Paniz è il relatore, dice Paniz non vale per i processi a Berlusconi. In realtà, secondo il Sole 24 Ore, il ritocco all'attuale articolo del codice penale sembra proprio cucito addosso per quel che riguarda un altro processo, il processo Mills, che vede coinvolto il Presidente del Consiglio e che riprende lunedì 21 marzo dopo una serie di rinvii dovuti ai legittimi impedimenti. Berlusconi all'angolo, mai una volta che il Colle mi aiuti. Questa è la retroscena della Stampa di Amedeo Lamarcello mattina, pagina 10, è quello che più si addentra su quello che sarebbe successo ieri quando Berlusconi è andato da Napolitano per presentare il rimpasto di governo. E l'impressione che Berlusconi non riesca più a controllare, scrive Amedeo la mattina, i numerosi contrasti esplosi dentro la sua maggioranza e il suo partito. Sono tante le zuffe locali per le candidature alle amministrative, ma poi c'è la vicenda kafkiana del rimpasto che procede con snervanti stop and go. Questo sarebbe l'atteggiamento di Berlusconi, a dire: Napolitano mi mette i bastoni tra le ruote. È andato con le persone per il rimpasto al Quirinale, frenata sul rimpasto. Così titola anche il Corriere della Sera. Il premier rinvia tutte le nomine. Perché? Perché lo sappiamo, uno dei nodi sarebbe questo: ci vorrebbe un decreto per aumentare il numero di esponenti del governo, limitato a 60 dalla riforma Bassanini. E su questo pare che Napolitano, siccome si devono accontentare un po' troppe persone, non voglia cedere. E quindi il rimpasto ancora è fermato. Tra l'altro, sul Messaggero c'è invece un altro retroscena. In prima pagina, firmato Marco Conti, il Colle è perplesso su Saverio Romano, che dovrebbe diventare ministro dell'agricoltura. Perché? Sentite qui. Ci mancava anche questa. Silvio Berlusconi è di umore pessimo quando rientra all'incontro al Quirinale col capo dello Stato. La questione a ballare fortemente la possibilità che Saverio Romano possa assumere il ruolo da ministro dell'agricoltura. Un report sui guai giudiziari dell'esponente siciliano del PID e sui presunti legami suoi e dei familiari con la mafia, che il Presidente del Consiglio e il Presidente della Repubblica hanno valutato insieme. Ciò non promette nulla di buono. In effetti, racconta il Messaggero, nel 2003 Romano è stato indagato dalla Procura di Palermo per concorso esterno in associazione mafiosa, un'accusa poi archiviata nel 2005. E nel 2009 Massimo Ciancimino lo accusa di avergli pagato tangenti per 100.000 euro e per questo è scritto nel registro degli indagati dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo per concorso in corruzione aggravata dal favoreggiamento di Cosa Nostra. Uno screening della Direzione Distrettuale Antimafia impietoso al punto da lasciare interdetti Berlusconi e Letta. Il Cavaliere si congeda con un laconico: rifletteremo e poi faremo sapere. Ecco, per il Messaggero c'è anche questo, il vero problema per il Quirinale è Romano, pesano su di lui report dell'antimafia. Sta di fatto che questo rimpasto di governo ogni giorno viene dato per imminente e poi però è rinviato. Che cosa è successo ieri? Anche un giallo politico in Parlamento, sapete, noi abbiamo dedicato anche una trasmissione al cosiddetto Election Day, cioè la possibilità di accorpare amministrative e referendum. Ora, ieri c'era una votazione di una mozione di Dario Franceschini, capogruppo del PD, per impegnare il governo ad accorpare queste elezioni, il che comporta anche un risparmio di denaro pubblico. Questa mozione non è passata, non è passata per un voto. E il voto decisivo che ha votato no all'accorpamento è quello di un radicale eletto nel PD, Marco Beltrandi, e che ora è sotto, bisogna dire, proprio anche processo da parte del Partito Democratico. No all'Election Day per un voto decide un radicale. Così a pagina 18 del Corriere. Marco, ma che fai? Devi votare sì. Il dito premuto sul pulsante rosso, i colleghi del PD che gli gridano questo e lui che tira dritto, si schiera col PDL e regala alla maggioranza la vittoria. Inizia così il racconto di Monica Guerzoni dal Parlamento. Marco Beltrandi, bolognese, 41 anni, per un solo voto ha deciso così, 276 a 275, col radicale bersagliato da un fuoco amico di insulti, Rosi Bindi che dice la sua scelta è gravissima, ci sono momenti in cui la disciplina di un gruppo è fondamentale, e lui che si difende, venduto io. Ma no, dice Beltrandi, non mi piacciono i sotterfugi, i miei compagni radicali sanno che sono ferocemente contrario all'abbinamento tra amministrative e referendum perché è un escamotage per raggiungere il quorum. E poi dice Beltrandi, perché tutto questo scandalo su di me? C'erano molte altre assenze anche nel PD, il gruppo ha perso 22 parlamentari, nessuno si è indignato, c'erano anche diversi imboscati nei corridoi, effettivamente non era l'unico, cioè c'erano altre assenze. Però certamente se avesse votato sì, e infatti anche il Secolo XIX, rimpasto, stop del Colle, poi Election Day, KO per un voto, addirittura Libero, un radicale salva il governo sul nucleare. Perché? Perché uno dei referendum è sul nucleare e quindi non c'è stato l'accorpamento. Io devo concludere oggi anche un po' prima. Ebbene sì, e con che cosa voglio concludere? Beh, voglio concludere con l'ennesima polemica che c'è in Rai. No, voglio non in Rai, chi se ne frega della Rai. Concludiamo con questo. Castelli invita a casa sua i coinquilini che l'assediano. Il vice ministro Castelli, che ha una casa in Asarco, che peraltro ha detto... ora l'abbandono, racconta il giornale a pagina 14 di fronte alle polemiche dei coinquilini che si è trovato sul pianerottolo di casa, che ha fatto? Beh, venite a casa mia e vedrete che non ci sono polemiche. E allora li ha fatti entrare con la gente che dice: ah, lei viene a occupare un appartamento che sarebbe servito a una famiglia, ma questa è una casa pubblica, l'Enasarco è privato, incalza un'altra, lei non sarebbe potuto porre il problema, magari c'è gente che prima di me avrebbe bisogno, dice un'altra coinquilina. A me non risulta che ci siano graduatorie, dice Castelli. Ma come no, certo che ci sono, ma che, insomma, una classica rissa tra virgolette di condominio. Ma poi Castelli si è chiarito e così ha fatto, vabbè, un gesto simpatico, ha fatto entrare i coinquilini, ha detto: comunque tranquilli, io questa casa la lascio, e in ogni caso ha fatto un gesto da uomo normale, ha invitato a casa sua i coinquilini che l'assediano, ha discusso con loro e ha detto: vi faccio vedere che la mia casa poi non è una reggia. Ora il giornale radio, poi dalle 8:20 il grande speciale con Oscar Giannino, l'avremo qui risorgimentale più di prima, per parlare dell'Unità d'Italia. Vi sentite orgogliosi di essere italiani? A tra poco.